E lì anche c'era, oltretutto, c'era anche la responsabilità, perché insomma sei al centro di determinate discussioni, attenzioni, e quindi devi tenere alta la testa sempre. Questo è per un giocatore che gioca nella propria città, è importante. Esatto, proprio questo io ti volevo domandare. Com'è essere un montevarchino che gioca a Montevarchi? Cioè, proprio in relazione anche allo spirito con cui i montevarchini guardano alla squadra, all'attenzione, all'entusiasmo che c'è. Perché comunque è anche vero, parlando di montevarchinità, che il montevarchino è di grande cuore, grande entusiasmo, ma anche di facile polemica, no? Sì, infatti, qui c'è 50 e 50, nel senso che è molto bello giocare nella propria città, ma subisci grandi critiche, chiaramente. Io ricordo che queste critiche le abbattei, le trapassai in qualche modo grazie a un grande allenatore che ha fatto un po' la storia di Montevarchi, che è Piero Braglia, perché lui, nonostante l'avversità che c'era nel pubblico nei miei confronti, che dice, sai, è di Montevarchi, ma che sarà capace, non sarà capace, è figlio del dottore, ma ce la farà, insomma, viene fuori tante cose, no? E Braglia mi disse, guarda, lascia un po' stare tutto, vai in campo e fregati di tutti questi pensieri, tutte queste cose, e inizia a giocare. E da lì è stato per me importante lui, perché è stato un padre calcisticamente, perché non parlava molto. Lui non stava a ascoltare quello che diceva la gente. Secondo me è un grande allenatore, ma prima che grande allenatore è un grande psicologo. Credo che non ha forse... Gli è forse arrivato tutto quello che ha seminato, perché probabilmente il carattere, perché probabilmente tuttora sta allenando a grandi livelli, però si meritava molto di più, molto di più. Io ho visto lui, ecco, se vogliamo vedere al momento, un Mourinho dell'epoca, un grande allenatore che sapeva parlare con il magazziniere, ma sapeva parlare anche con il presidente, sapeva parlare con un ragazzetto di 16 anni, sapeva parlare con quello di 40, ma poche parole, perché altre erano i fatti che contavano. E questo è il grande insegnamento che poi all'epoca, sai, non c'era neanche internet, non c'era Facebook, non c'era tutto. Quello che avevamo forse era la scuola, le amicizie, andasse a mangiare un panino all'alimentari, prendere la Vespina che avevamo, però ecco, quando arrivavi lì, ecco, le sensazioni forti erano proprio queste, le sensazioni forti di persone che ti tramandavano qualcosa, avevano vissuto qualcosa più importante di te. Capito? E quindi, ecco, ti dico, questo fatto che io ho giocato lo devo molto a lui, insomma, ecco. Parlando appunto di Piero Braglia, che come allenatore è arrivato anche lui in Serie B, non mi sembra sia arrivato in Serie A, ora non mi viene, ma non credo, diciamo comunque la Serie B sicuramente l'ha vista, ci parli di lui come un grande psicologo, e dalle tue parole mi è sembrato di capire che praticamente lui a 17 anni, per combattere le critiche, ti chiese sostanzialmente di spengere la testa e iniziare a giocare la partita. Tira fuori gli artigli, vai dentro, non ti fregare niente. Quando poi ti sei ritrovato in Serie B, quindi nel calcio professionistico, perché in C a Modena comunque la C l'avevi già fatta a Montevarchi, però in Serie B, nello scalino superiore e a un passo proprio dalla summa del calcio nazionale, questo tipo di insegnamento, spengere la testa e pensare solo a giocare, ti è ancora servito o c'era da fare anche altro? No, c'era da fare altro. Io in particolare, se vogliamo parlare anche della, insomma, dei particolari della mia carriera, non sono stato un buon giocatore da questo punto di vista, perché molti mi accusavano di essere un vero professionista, perché magari avevo questa testa sempre un po' per aria, questa cosa che magari c'è, cioè, questo alone di facilità che magari poi in realtà non era così, no? Magari uno si copriva da determinati altri atteggiamenti facendo in questo modo. Diciamo che ho affrettato un po' la carriera io in quegli anni. Mi ricordo che feci molto bene a Modena, e a Modena vinsi anche lì, mi ricordo, diverse classifiche di rendimento che i giornali all'epoca facevano, tipo la Gazzetta dello Sport, anche quella dello stesso stadio. Ma mi incontrai subito con un pubblico troppo, troppo forte, perché un conto è giocare a Montevarchi e un conto è giocare a Modena, e Modena ambiva a ritornare in Serie A. Mi ricordo il presidente era Farina, c'era Montezemolo, quindi le pressioni erano tante per un ragazzo che veniva fuori da una realtà come Montevarchi, che comunque l'avevo già vissuta, e quindi ero pronto a poterla affrontare. Infatti ho fatto anche molto bene.

Cioè, tanti nascono fenomeni, non hanno bisogno di niente, magari poi dopo non si aggiornano, si fermano anche loro. Perché la vita è fatta di apprendimento, in tutto. Io gran parte degli errori del calcio li stavo ripetendo anche nella mia attività qui a Montevarchi, poi ho capito che mi dovevo dare una mossa, mi dovevo aggiornare, dovevo essere più preparato. E la vita penso sia fatta così, di lavoro, di andare in giro a vedere come lavorano gli altri, di capire tante cose che se rimani fermo nel tuo posto non riesci a capire. Capito? Io per dire, questa settimana, domenica sono andato a fare un giro, ho visto altri locali, sono andato a vedere. È importante capire come lavorano anche le altre persone, come la pensano. E questo, vedi, anche oggi, per dire, un paese soffre come Montevarchi, no? Soffre perché si è pensato anche troppo fuori, poco dentro di noi, capito? Non siamo andati a vedere come lavorano gli altri paesi, siamo stati troppo presuntuosi nel fare tante scelte, capito? E invece ci vuole sempre un pizzico di umiltà, fa sempre bene a tutti. Purtroppo alle volte la politica sbaglia, poi sbagliano le squadre di calcio, i team, insomma. Però è importante imparare. Ecco, lì in queste squadre, se ci arrivi che sei parte da squadre più piccoline, quando arrivi lì ti fermi e dici quindi devo imparare qualcosa, ecco. E c'è una curiosità mia personale, come prima ce l'ha avuta Davide, perché devi sapere che io in tenerissima età ho iniziato una carriera di calciatore nel Montevarchi e non volevo fare l'attaccante, però pensavo solo al pallone, a giocare a pallone. Andai alla scuola calcio e allora Piero Bencini, che mi allenava in quel momento, capì che io non ero portato per giocare fuori dalla porta, perché ero uno di quelli che gli si faceva fatica a correre, insomma, e tutte queste cose qua, e quindi mi misero in porta. Però è una cosa che ti chiedo, da portiere a portiere, permettimi, scusa il parallelismo, perché non c'è assolutamente, fra me e te c'è un divario enorme, insanabile, però da portiere a portiere, io mi ricordo a 10 anni, 11 anni, giocavo allora nella Zenit Calcio, che era la seconda squadra di San Giovanni, derby contro la San Giovannese, e sembrava di giocare uguale con il Montevarchi, nel senso che quelli della Zenit era come se fosse il Montevarchi. Si vinse 1-0 e io parai un calcio di rigore incredibile. C'ho ancora in casa il trofeo che ci dettero da bambini, 2 cene pagate, cioè proprio roba allucinante dalla felicità di questa società. Però io non mi ricordo, ero troppo piccolo. Ma te, che poi hai fatto una carriera vera rispetto a me, il momento topico per un portiere è il calcio di rigore, quando sì, c'hai davanti uno che da 11 metri da solo tira, e questa porta che sono 7 metri e mezzo ma ti sembrano 15, incredibile. Cosa si pensa? Come si fa? Si deve spengere la testa e andare d'istinto? Ci ragioni su? Li studiavi in allenamento? Non lo so, spiegaci il calcio di rigore. Ti riporto un attimino a quella che dicevo prima, no? Magari a Montevarchi non avevi le immagini di tutti i calci di rigore che tiravano centravanti o centrocampisti, alle volte dire anche difensori. Invece la Sampdoria sapeva tutto di tutti, ma anche in C, si sa. Ecco, lì ci facevano vedere le immagini di come si calciava, come calciavano, come appoggiavano il piede, da lì decidevi se andare a destra e a sinistra, ma è proprio così scontato. Sai, è difficile un attimo, però è un attimo bello, perché insomma se pari un rigore dopo la partita, cioè, può succedere qualsiasi cosa, perché qual è il terrore di un portiere? Quello di sbagliare qualcosa, no? Se pari un calcio di rigore sei a posto, no? Cioè, hai già vinto 1-0, capito? E niente, il calcio di rigore è una cosa è importante per un portiere, perché al di là del fatto, diciamo, di prendere fiducia, ma è anche quello di capire come calcia un avversario, no? Come mettere il piede d'appoggio, da lì capisci se ti può. Adesso non lo capisci perché sono talmente bravi a tenere un calcio di rigore che veramente. Ma una volta c'era più possibilità che tu capivi se come dall'appoggio dove calciava, dove metteva la palla, sia la tua sinistra o la tua destra. E poi c'era una cosa che noi spesso usavamo, no? Se eravamo in vantaggio, cioè se io ero in vantaggio come portiere, avevamo 1-0 alla mia squadra, probabilmente se mi tiravano un calcio di rigore, va bene, lo tiravano destro, te lo mettevano alla tua destra, perché era più sicuro di far gol, capito? Perché il destro lo incrociava meglio la nostra destra, e quindi. Però sono tutte cose che poi si può stare a parlare per per 3 mesi, amico. Ma è bella, perché poi dopo non solo su altri rigori, ma anche le punizioni, anche tutto il resto, insomma, c'è una serie di cose che uno deve sapere, che se non è stato un campo a vedere, a fare, a controllare, insomma, a seguire, diventa dura anche a capirla alle volte per uno spettatore, capito? Federico, tornando un attimo indietro, in realtà torniamo a parlare di Genova, prima di poi tornare a parlare di Montevarchi, perché poi ti voglio fare anche un paio di domande ovviamente su Montevarchi. Come è essere un calciatore che vive, tra virgolette, in trasferta in una grande città come può essere Genova, in una grande società come la Sampdoria, e quindi con tutte le attenzioni del caso, perché comunque sei un professionista di una grande squadra? È una domanda importante, perché proprio anche qui mi fermo e vi racconto che quando io arrivai lì, insomma, trovai in difficoltà, proprio perché quel fatto che vi dicevo prima del carattere mio era un po' così. Appena arrivai, io mi ricordo Ventura, allenatore, e arrivai, avevo la febbre a 40, venivo da Lucca, facevo uno scambio con, non mi ricordo come si chiamava l'altro portiere, adesso mi sfugge, vabbè. Arrivai lì e c'era Ventura, e Ventura era una persona abbastanza diplomatica, si vedeva anche in nazionale, che, insomma, parla bene, e ti incute anche un certo timore. E mi ricordo che arrivai lì, Ganzerello, e dopo 3 giorni ero dentro l'ispiratore, io sono lui. Ero dentro lì perché lui mi diceva che io mi aveva visto chiacchierare con una ragazzina ai bar e che questa cosa andava bene, ma non solo a lui, ma anche a chi mi aveva visto con questa ragazza parlare, e che quindi lì sarà la Sampdoria e che si doveva comportarsi in un certo modo, non ci si doveva far vedere, non si doveva neanche uscire. Questo era un po' il messaggio, e appena mi lanciarono subito, perché effettivamente quando giochi a quei livelli lì, anch'io mi sono trovato a arrivare lì e vedere questi ragazzi che avevano la metà o qualche anno di me, che con Porsche, Ferrari, insomma, ben istanti. Io avevo guadagnato bene, ma non quelle cifre che guadagnavano loro, quindi mi trovo di fronte a questa cosa e mi lascia anche a me un po' spiazzato, perché dico, madonna, se uno fa bene diventa veramente, non c'ha più problemi di soldi, cioè, ma poi se ragazzo la giorni così, che pensi? E niente, mi ricordo che non fu facile questo approccio con Genova, proprio per questo. E io mi ricordo mi ero lasciato la fidanzata, e che quindi, sai, si erano tutti belli, giovani, in forma, le ragazzine mi giravano intorno, e quindi Ventura mise le mani avanti, disse, se vuoi stare qua, segui un certo iter, perché se no ti si manda via subito, insomma. Però voglio dire, in teoria, ma senza scendere nei dettagli, in realtà poi c'era un modo per sgattaiolare, oppure no? Si scappava. Come scappano Gigi e Andrea nel famoso film. Esatto. In quel modo, non da ritiro, scappava durante la settimana, perché se no non era possibile. Comunque, venendo a te, anche la domanda, al discorso che si faceva prima, insomma, si parla di Genova, Genova fratto è bellissimo. La Sampdoria si allena a Vogliasco, in questi campi meravigliosi, perché sopra c'è la montagna, sotto c'è il mare, dove non c'è freddo mai, dove non è mai ghiacciato il campo, in condizioni sempre perfette. E niente, vi racconto un'altra sfortuna: eravamo primi con 7 punti di vantaggio, io ho fatto un contratto per rimanere lì se si andava in Serie A. Purtroppo devo raccontare un'altra sfortuna, che il girone di ritorno, niente, praticamente da 7 punti di vantaggio si ridusse il divario con le altre squadre. Addirittura arrivavamo all'ultima partita che ci passò avanti il Napoli, andò in Serie A il Napoli, ma rimanevamo in Serie B. E quindi niente, gli è successo un casino bestiale, perché poi mandarono via Mantovani, c'era il figlio, e Mantovani andò via, un casino, saltò tutta la squadra, insomma, lasciamo perdere. Però vi devo dire che è uno dei più bei posti, secondo me, per giocare a pallone, in assoluto. In assoluto, da partire dal campo d'allenamento, proprio. E visto che ci hai citato una piazza importantissima che ora veleggia in testa alla classifica di Serie A, almeno nel momento in cui stiamo registrando il podcast, il Napoli. E com'è entrare a giocare al San Paolo, 80 e più mila spettatori, anche se magari non era pieno quel giorno, però com'è? È un'area bella. Bellissima, anche se ti dico, è bello, però lo stadio del San Paolo è un po' dispersivo rispetto a Genova. A Genova è veramente una cosa meravigliosa. Penso che l'esperienza così la puoi portare con te per sempre. Milano, Napoli, c'erano tutti dei stadi molto grandi, però è meraviglioso, che dice, è fantastico. Però amo più quei campi di come diceva lui, forse è il campo più bello. I campi all'inglese, sì, campo, dove il calore, esatto, del pubblico è più... E purtroppo in Italia non abbiamo investito nel calcio e questi stadi sono rimasti con la pista per fare, insomma, atletica. E quindi hanno levato tanto spettacolo, non ci siamo rinnovati, adesso stiamo soffrendo un po' perché abbiamo questi stati vecchi e sicuramente non è che siamo diversi dalla Spagna, o la Spagna si compra di una gioia pallone, è che non abbiamo una struttura, perché come ti dicevo prima, mi ricollego, quando sei a giocare in un ambiente che funziona, tu ricevi da questo ambiente tutto quello che di meglio ti può dare e dai all'ambiente quello che puoi dare di meglio. Quindi diventa un connubio, no? Se tu vai a giocare in uno stadio tipo, che ne so, anche ora all'Olimpico a Roma è dispersivo parecchio, capito? Ecco perché anche la Roma va sempre fatta. Adesso si è visto con la Juventus Stadium come agevolata la Juventus per vincere le partite, ma è una cosa normale. Perché c'è un'organizzazione, perché c'è uno stadio bello, perché la gente è tutta lì a vedere i giocatori, perché insomma è un'atmosfera bella e l'atmosfera va sempre ricreata, perché se no si vince le partite. E ti faccio una domanda un po' così, che mi è venuta alla volée. E tu hai vissuto da calciatore la passione del tifo montevarchino. Torniamo a Montevarchi. Secondo te, se Montevarchi avesse uno stadio con gli spalti più vicini al campo, proprio per effetto della grande passione che la gente ha sia in curva quanto in tribuna quanto in gradinata ai tempi in cui tu giocavi, aiuterebbe la squadra a vincere le partite? Sarebbe determinante? Sicuramente sì. Non lo so se economicamente è una cosa fattibile. Per fare una cosa con uno stadio così, io credo che c'è bisogno di più forza insieme. Però uno stadio senza la pista dell'atletica, con uno stadio dimensionato a quello che è poi lo spettacolo, certamente aiuta a vincere. Quindi attualmente non è fattibile a Montevarchi, almeno in solitudine, però questa sembra davvero la strada che sia più, che sia migliore da percorrere. Poi c'è qualcuno che investe e che fa questa cosa, perché sicuramente c'è un ritorno, ma c'è un ritorno se questo stato è seguito anche da un progetto che va prima dello stadio, cioè investire su tutti i giovani, insomma, sono fondamentali, perché poi si crea un business e ti manda il giovane, come sono stato io, a giocare dall'altra parte e la società prende qualche soldo e si crea un circuito per cui è più bello lavorare e anche fare lo stadio nuovo. Del resto questo è quello che la Lega chiede espressamente alle società professionistiche. Come ci hai raccontato, con la Sampdoria perdeste praticamente la promozione in Serie A all'ultima giornata, all'ultimo tuffo. Però te eri, tornando agli anni di Montevarchi, in quella squadra che vinse la Serie C all'ultimo tuffo, vincendo con il Sampdoria in casa e poi al Lugo di Romagna. Raccontaci un po' quel finale di stagione, come lo vivesti, e anche quella stagione per te comunque immagino importante, perché comunque una delle stagioni ricordate come tra le più grandi, sì, della storia dell'Aquila. Beh, fu una stagione incredibile, anche perché, come ti ripeto, avevamo la fortuna di incontrare, almeno io, qualcuno l'aveva avuto a San Giovanni, un grandissimo allenatore, una persona incredibile, con la quale io ho fatto l'errore di non pensare ai soldi e non seguirlo, perché sicuramente mi sarei accresciuto, perché faceva il gioco che piaceva a me, perché io giocavo come voleva lui, e quindi vabbè, insomma, questa è una cosa che mi porto dietro e che è purtroppo sbagliato, perché penso che lui sia l'artefice insieme a dei grandissimi giocatori di quell'annata incredibile che vincemmo proprio all'ultimo. Ma ricordo che quanto lavoro è stato fatto dietro a quell'anno lì, quanta tensione, quanta dedizione. Io ricordo che lui, forse uno dei primi, si parla del 94-95, ci portava in palestra martedì mattina, mercoledì mattina, adesso non ricordo bene, e con Tognaccini, che poi è stato per lunghi anni, anche ora penso sia al Milan Lab a Milano, ha seguito il Milan, ha vinto tantissimi Champions League, con Tognaccini facevamo un lavoro incredibile di preparazione atletica, ma anche mentale e soprattutto strutturale, che durava durante tutta la settimana. Ecco, con Braglia tutte le settimane erano uguali, non cambiava mai niente, lui non amava fare molte amichevoli, non amava stare con la sua propria squadra, eravamo abbastanza chiusi come gruppo. Magari facevamo il giovedì l'amichevole con la Peretti, però lui non amava molto girare, portarci in giro a sprecare tempo, ecco, ci faceva stare concentrati, sapeva davvero una grande squadra. E quindi in questa grande concentrazione, pochi cambi, ricordo che non avevamo tanti cambi, mi ricordo che lui aveva dei giocatori e sapeva poteva contare anche sulla tenuta fisica. E all'ultimo, dopo insomma, tutto questo grande lavoro c'è stato dietro, siamo riusciti a coronare proprio a Lugo di Romagna questa vittoria incredibile. E mi ricordo con Sandonà ero un porta, io infatti da lì poi a Lugo lui non mi fece giocare, perché io con Sandonà ero un porta e perdevamo 2-0, pronti via. Ma io ero un po' fuori dal mondo, perché io ho detto, Madonna Santa, qui se si vince sta partita. Allora da Montevarchino sentivo tutto lo stress, tutta l'attenzione del Montevarchino. Allora lui pensò a Lugo e disse, no, ora questo non faccio giocare. Faccio giocare Cristian Tosti, che fra l'altro è un grandissimo portiere. Fece giocare lui, fece molto bene a mio avviso, perché ero un po' in tensione io. E niente, riuscimmo a coronare questa vittoria incredibile. E poi, come vi ripeto, tutto era amplificato, perché oggi purtroppo ci si fa distrarre il computer. Immaginatevi voi quello che poteva succedere, una cosa del genere, ecco. Ed ora, riferendomi a quella stagione in particolare, tocco un argomento nostalgico, molto nostalgico per tutti i montevarchini, probabilmente quantomeno quelli legati alle sorti dell'Aquila, ovvero il vostro rapporto da calciatori e il tuo rapporto personale da calciatore e da montevarchino con la presidenza di allora, ovvero con Vasco Farolfi e Lezio Losi. Quanto li sentivate vicini? Ma erano sempre con noi praticamente, perché sono stati due personaggi incredibili. Due personaggi che forse proprio per quello che dicevo oggi, ora neanche si possono facilmente ritrovare, perché siamo persi in altre cose. Questi erano personaggi che facevano imprenditori, riuscivano a tenere insieme una squadra di calcio, scherzavano, ridevano, andavano a cena, allo stesso tempo erano molto seri, perché nulla si pensi che venga senza la serietà. La serietà è fondamentale, perché oggi si pensa magari i risultati si possano raggiungere senza essere seri. No, senza essere seri, senza dedicarsi a quello che si fa, non si raggiunge niente. Non si raggiunge assolutamente niente. E loro, anche loro non parlavano tanto, entrambi. Mi ricordo bene che sia Vasco Farolfi che Lezio Losi, a cui sono molto legato, non è che amavano molto perdersi in discorsi, erano determinati. Da imprenditori qual erano determinati. E poi amavano il Montevarchi. Amavano il Montevarchi perché loro non vedevano l'ora che arrivasse il sabato e partire il ritiro. Il ritiro era una cosa, era sacro il ritiro. E loro si mettevano a giocare a carte, sapevano quello che mangiavano la sera, giocavano a carte, facevano la sua giratina la sera, poi ritornavano. Poi era un rito, no? Il giorno panchina, soprattutto Lezio, era onnipresente. E io Vasco Farolfi lo ricordo un po' meno in panchina, anche se era sempre in tribuna lui, seguiva comunque sempre la squadra, era più Lezio, gli piaceva stare a contatto con i giocatori, era anche più tranquillo forse, per questo c'era un tacito accordo, dice Lezio va te, io sto un po' più in tribuna, davvero? E quindi, ma due persone incredibili, davvero. Quando si parla di queste cose ti vede brividi, perché poi oggi dove le ritrovi? Da nessuna parte. Esatto, è proprio sul fatto che la Montevarchi di allora e la vita di allora è evidentemente diversa dalla vita di oggi e la Montevarchi di oggi, che ti faccio questa domanda. Te poi nel post carriera calcistica hai aperto un'attività in via Roma, in centro storico a Montevarchi. In questa trasmissione noi indaghiamo la montevarchinità e quindi la domanda sorge spontanea. Esatto, cioè chi meglio di te ci può raccontare quali sono state le evoluzioni o le involuzioni della montevarchinità rispetto alle epoche in cui ad esempio giocavi in Montevarchi e quelle di oggi, ma soprattutto rispetto al modo di vivere la città di 20 anni fa e il modo di viverla oggi? Sono cambiate tante cose, perché io mi ricordo che noi da ragazzi facevamo le basche in Roma e questa cosa per forza di cose non esiste più, è cambiato tanto, però quello che dico io è quello che non riesco a a capire da Montevarchino è proprio il fatto che non si partecipa più alla vita del paese, che il centro storico non è più il cuore di Montevarchi, che siamo tutti a lamentarsi per quello, per quell'altro, per quell'altro ancora, e che probabilmente l'interesse economico fa da padrone, non essendo più in centro storico, non c'è più neanche l'interesse per tenere un centro storico, a questo punto penso questo, no? In un bello stato, o in uno stato da dire ci si riporta i ragazzi, perché magari io anche sono cascato purtroppo in tanti tranelli, perché sono molto impulsivo, l'ho fatto anche su Facebook, poi mi sono fermato, però penso solo che un paese debba ritrovare le sue origini a partire dalle piccole cose e pensare che sono cambiate tante cose. Però volevo provare a fare un parallelismo ora molto, molto tirato, eh? Pensare, per tornare all'Aquila e Montevarchia, le condizioni in cui era in Montevarchia al momento, diciamo, del fallimento effettivo della società e come progressivamente la società è stata ricostruita. Stiamo registrando e domenica abbiamo giocato il derby con quelli i cugini di là dalla Gruccia in trasferta e c'era un grande ritorno di pubblico, questo lo dico per puntualizzare, appunto per spiegare, cioè anche il ritorno allo stadio dei Montevarchini, che è andato in crescendo perlomeno negli ultimi anni, potrebbe anche essere un segnale, insomma, che in un modo o nell'altro, passettino per passettino, poi per quanto i tempi siano totalmente diversi rispetto a 20 anni fa, però le cose possono cambiare. E a proposito di questo, te ovviamente da esterno in questo momento, perché se non erro non hai nessun ruolo all'interno della società o comunque intorno all'Aquila, come vedi però questa rinascita tra virgolette del Montevarchi, questo nuovo Montevarchi che è ritornato in Serie D e che torna quindi a calcare dopo anni dei palcoscenici un attimino più adatti alla sua storia? Hai fatto un'analisi importante, perché sicuramente loro hanno lavorato bene, hanno lavorato insieme, sono tutte persone di Montevarchi che si sono andate a cena insieme, si sono riunite, non hanno litigato e hanno portato il Montevarchi Calcio a un buonissimo, buonissimo livello e apprezzabile. Dietro a tutto questo ci sono persone che io conosco, sono in gambissimo, probabilmente hanno iniziato a fare dei conti, hanno iniziato a fare delle prospettive, hanno iniziato a fare delle cose che un po' può andare bene, può andare meno bene, però hanno cercato di ricostruire una cosa. Questa cosa in qualche modo lo dovrebbero fare anche ora qui a Montevarchi, in certo storico, ricominciare da zero, dalle piccole cose. È difficile, te l'ho detto, è incredibile, cioè è incredibilmente difficile parlare di queste cose, però è mettersi sotto, azzerare tutto. Lo so che poi magari, che ne so, c'hanno da pagare miliardi di cose, oppure non c'hanno soldi, oppure... Però piano piano riportare Montevarchi, e sicuramente sarà così, perché la storia vuole questo. Non mi ricordo quale filosofo diceva corsi e ricorsi storici, ma è così, sicuramente prima o poi il centro di Montevarchi tornerà al centro di Montevarchi, perché non è la storia che lo vorrà, ci sarà meno negozi probabilmente, ci sarà, tornerà come una volta probabilmente, oppure no, mi sbaglio, c'è questa possibilità, e siccome questa possibilità c'è andrebbe tentato di perseguirla. E per come noi abbiamo pensato la trasmissione radio, vale a dire la ricerca della montevarchinità partendo dallo stadio, chissà se la montevarchinità civile si possa iniziare a ricostruire dall'esempio che sta dando appunto lo stadio, le persone che gravitano intorno allo stadio. Ma chiudiamo questo discorso un po' metafisico per tornare al calcio, alla domanda di rito che porgiamo ad ogni ex calciatore che viene qua. In tutti gli altri casi fino ad oggi è stato un gol, ma nel tuo caso è ovviamente: qual è la tua parata che consideri la tua parata della vita che ti è capitato di fare in carriera? Ma guarda, io mi ricordo la prima partita che ho giocato a Modena con il Como. Mi ricordo, guarda che cosa viene fuori, proprio su Elia, che abbiamo giocato a Montevarchi, fece una grandissima parata e fu una partita bella per me, perché cominciai molto bene questo cammino, e quindi diciamo che incorono quella partita lì in particolare, questo Modena Como e questa parata, e poi ce ne state tante a Montevarchi anche di cose che ricorda un piacere, insomma, ecco. Mentre invece un'altra domanda di rito abbiamo fatto a tutti gli ex calciatori che sono venuti a trovarci è se te avevi un rito, un rituale scaramantico nei pre-partita o nei pre-partita importanti. Guarda, cioè, sei mai entrato in spogliatoio di quando... No, io giocavo a basket, quindi noi però non sapeva riti. Adesso non lo so, però all'epoca se entravi in uno spogliatoio, al di là che lo spogliatoio è bellissimo perché insomma il spogliatoio sia il campo del calcio, ci sono le onde che vibrano, no, nell'aria, e se vai nel campo senti gli odori dell'erba, ti ricordi ogni singolo particolare, se il campo era bagnato, c'è un odore, se il campo era... cioè è tutta una serie di cose che è incredibile, tornando alle sensazioni anche alle diciamo scaramanzie, ci sono di tutti i tipi, ti vedi gente stesa nelle docce, il tappetino, le gambe alte, oppure vedi quello che si bagna il collo, quell'altro si mette un calzino in un modo o in un altro, quell'altro si mette il mutande al rovescio, insomma ne succede di tutti i colori, lo spogliatoio è bellissimo, per questo poi quando si mette di giocare queste cose ti mancano, no? Perché ci sono tutta una risata, cioè immagini che sia una cosa, quello che ne so che mette l'accappatoio al posto di un altro compagno, che l'altro, insomma, di scaramanzie ce n'è tantissime, sì, perché poi alla fine è un gioco e quindi non si sa come va a finire, no? Ma te ne avevi una in particolare, oppure? Io mi ricordo che spesso mi mettevo un calzino all'incontrario, quando sapevo che qualcosa andava, poteva andare storto, qualcuno mi avrebbe fatto qualche macumba, e questa cosa non mi faceva pensare, no? Mi sembra molto saggio difendersi dalle macumbe. Carissimo Federico, siamo arrivati al termine della registrazione di oggi. Io ringrazio il pubblico di Radio Big World, ringrazio Julian qui con me, il nostro regista Danny Boyle e ringrazio Federico Bigliazzi. Grazie a voi, è stato un piacere veramente, davvero. Anche per noi veramente, grazie. Molto piacevole. Buona serata a tutti, alla prossima puntata. Danny Boy. Bello Danny Boy, no, me lo ricordo anch'io. Perché me l'hanno rammentato, c'è la Mizia sta girando un film e un Danny Boy. Ah, la Tuzia. La Mizia fa la scenografa. Mandami l'autorizzazione a poter mettere degli articoli di giornale di quando tu giocavi dietro a questa scena che Danny Boy sta girando lì a Roma, vedo. E l'approccio... Anche se è vero, insomma, ha fatto una cosa grandissima, insomma. No, infatti... Rimarrà nella storia per sempre. Poi in che casa vive uno che gioca nella Sampdoria? Ma tu vuoi gossip? Quanto vuole questa casa? Garozzo mi ha trovato la moglie via Roma. Perché era un calciatore, è vero, è vero. Ma mi riconosci, giovane nel Montevarchi, e lei a me importa la sega di calcio. E nel calcio c'è sempre questa storia, guarda, di questi hanno fatto la carriera sono tutti mezzi dominati. Quando c'è soldi di mezzo è un casino. È un casino.